positivo. Adesso non lo sta facendo più, no? Ma si è uscito a quattro momenti il muto e poi l'ultimo passaggio del quarto si è uscito. Non lo so allora che cosa dipende. Non lo usaccio, bello. Ci scappano, se no poi del resto va tutto bene. È pulita la radio, bella, squillante. Questo l'avevo sempre, hanno manopolato poco, capito, era sempre a una parte insieme con gli altri perché uscivo anche con gli altri apparati. Va bene, può farli girare un po' tutti, farli girare un po' tutti, però li fa bene, non male. Ok, mi ha fatto piacere, ti dico una buonanotte, ti dico salutami il Correa. Bambini, signora, già ci sentiamo domani allora. Ciao, perché? Ciao, mi ha fatto molto piacere anche a me ascoltarti, dai. Vai con un buon 144, andiamo a fare, saluto la te e quella familiare, dai. Ciao, da domani. Perché sto seguendo il telegiornale, capito? Quello che farò anche io adesso. Ciao Maria, a domani. Così uscendo sto sito. Sì. Vabbè, dimmelo tu quando. quando fa rumore. Va. Ora l'ho ristretto, guarda. Tu non mi prendi la mano. Vabbè, dopo lo controlliamo bene. Tutta la sera io ci ho messo, mamma mia. Già lo so, guarda, ti sia subita qualcosa, no, te ne sei appezzata. Ma è una piccolezza da riguardare. Se no secondo magari come è andato a chicciarla e cosa fa di questa cosa così. E mai non ne sciolgono, io pido un paio di forbici e lo taglio con la forbice, quello che c'è in più. E così? Perché ho capito il saldatore, dopo 14 io faccio così, così non sto a fare mille cose. Pido la forbice, taglio, tac, isolo di nuovo e ho fatto il gioco. Figata. È tanto molto più grosso, non le altre sono belle piante, questa qui va appena appena di perturberanza, ma poco a poco, non è che... E stasera non deve uscire troppo, troppo. Vediamo, allora. K, Anzu, non la sanda. Carpe diem. K. Carpe diem. Tu carpe diem, hai capito? Sì. Yeah. Che te che? Mi va di animare tutti i piedi sotto la pianta, anche oggi. Mamma mia, ero da un bel che non c'avevo questi dolori. Schiena, piedi, oh yeah. C'è un bucile. A chi era abituato magari a appena appena ferma, ma come ti dice mosso, fatti così appena. E fermo non ci stavo mai, anche a casa facevo io stesso, non ci sto mai fermo. Aiutavo, facevo, cucinavo, insomma, già aiutavo, non è che stavo fermo. Ma questi sono i dolori del mestiere, non è che sia che me l'ho dimenticato, ecco. Sono i dolori del mestiere, come fai gli sforzi, tutte le volte che fai sforzi ti vengono. Se quando eri in moto, come prendevo i fusi, mi faceva male la schiena e maglia. Ma è normale, perché te è stato più di una settimana e stai riprendendo. Quasi che te ti faccia così, a me mi fa l'effetto contrario invece. Cioè magari se rientro dopo una settimana dopo un leone, capito? No, ma che io lo stesso. Per il lavoro non c'è problema, il lavoro me lo devo sbrigare tutti gli spiriti che avevo fatto, tutto là. Mi sono ritrovato il furgone senza nafta, tutti i roll carichi di pezzi, il macchinario senza pulire, un casino lì. No, non paghisco, no, non paghisco, no. Non ti volevo dire, cioè se io sto una settimana senza lavorare, dopo che non rientro, Sant'Antonio, cioè, mi vedo a tutte le parti, andando a torrente, no, non mi vedo più a me, capito? Perché mi fa quello, mi fa quegli effetti lì, magari da dopo l'indomani dopo un poveretto così, No, tanto aspetta un attimo, c'è stato un break. Avanti. Mia roba, io ti sento. Santiago 3,5, vai. Però già ti sento. E ciò mi senti. Perché stavo uscendo contro il fatto. Pagato. Ehi, ehi. E beh, vabbè. Pescando stanno. E beh, ma col fucile. Ma gli orari verso le brunine. Ho capito chi sono, quelli che si mettono quasi di fronte alla cabina dove abiti tu. Subito dopo dove c'è il coso, la vedetta che sta lì. Non so se ci sia o se c'è solo il coso, l'abitazione della vedetta. Ma si mettono sempre dopo quell'impalcatura lì. Bisogna che anche io lì, perché io ho provato dall'altra parte, c'è roccia, però ho pescato un bel sarago lì, un bel sarago dorate, belline sui 600 grammi, capito? Adesso ci devo ritornare. Mi pare che sabato ci ritorno, sabato otto me la faccio. A vedere se mi gioca che cosa. Perché lì si pesca, se trovi il momento giusto peschi bene, devi trovare il mare incalata, roba. Io sono sceso per due giorni dove c'era il mare incalata e sono andato bene. Quando ho trovato il mare piatto, un giorno non ho preso nulla. Infatti va messo così, va preso così il pesce, come c'è mare incalata, e se anche non c'era qualche alga, qualche cosa, però poi prendi bene, là. Ma io sono andato bene, tre volte sono sceso, quattro volte sono sceso, una volta non ho preso nulla e tre volte ho preso bene. Ma no, vabbè, buon carica, là. Se voi qui siamo qua, avanti Antonio, c'era Roberto Quadrato, lo sentite? Antonio! Antonio si è perso e non sa tornare. Oh, lui mangiava. Ti ha salutato Roberto Quadrato. Allora, contraccambiate i saluti, anche se qua non riesco a sentirlo. Antenna Michele 2, per arrivare qua. La gappa. Sta facendo in condizioni, diciamo, un po' precarie, là. Però io già lo sento, Santiago 4 lo sento. Allora, ci sarà pure una cosa, un arringo di me. Allora come stavi a sparato, Richardo, ma lui qua è arrivato forte anche. Non forte forte, ma almeno 8, 9 c'è. Ma lui sta mettendo una cosa posticcia perché la casa non è la sua, capito? È in affitto, quindi la deve togliere, fare, capito? Lui mette una cosa veloce e via. Dove ci vuole montare? Io adesso l'avevo fatto io, avrei preso uno di chi si cose in fretta pesante, cioè c'è anche quelli dove si mettono le ombrelloni col piantone in acciaio. Avrei messo lì, l'aveva portato un fatto di fare e via, e l'avrei salita. Poi quando me l'hai andato l'avrei smontata e via. Quello se vuole lo può fare anche lui, basta che prenda un barattolo di vernice, gli butta il cemento con un paravento, che magari gli fa prima i piedi che si girano all'interno, tipo staffe contro coso per uscire. Li butta appena appena di cemento, prima poi mette quello lì e poi butta tutto il cemento sopra e fa la forma. E tra lui da lì, solo che si deve appintare ogni volta, posarsivo e coso. E dopo il coso dell'ombrellone, ha fatto bene in piedi. Attacca due pari, da 5 metri. Ci sono anche quelli del letto, tac tac, figlia monta l'antenna e via, lui, e che ne ha la lampada più, magari due prezzi di sopra fa finirlo il piantone e via, e che cavolo gliela butta più, cioè, e poi quando te ne devi andare monti tutto e via, ci vuole 5 minuti. Poi lui già c'ha il camper, lo mette dentro il camper, a voglia che ci sta. A voglia! Solo che devi metterli così, in terra. Quindi meglio una cosa pesante. Poi mi devi punire una cosa pesante, ma non si può fare. Questa portata. Sì, c'è già tre volte che te la metto. Sì, ma già a giudizio. Parlavo Roberto. No, Roberto lo sta parlando, se l'è andato a mangiare, ti ha salutato. Mentre hai salutati che andava a mangiare. E io comunque dice che ieri dove vado io a pescare hanno preso dorato un bel bene. Ce n'è, ma di fortuna ci vuole. Di fortuna ci vuole tecnica, ci vuole, non sono fortunato, i calamenti peggiorati bisogna saperli fare, non sono tutti che li fanno bene, che con l'amo che ci vuole, tutto quanto, e bisogna avere anche tecnica, non solo fortuna. Già lo so, quella è stata un'ombra di dubbio. Poi ci vuole la fortuna, senza ombra di dubbio, se non passa il pesce, e chi dà la ragione, non va a mangiare. E tu lo butti in un deserto, non lo male che non ti nulla. Se invece c'è pesce che passa, ma per esserci il pesce basta che tu vai mare in calata. Mi stavo preso una palamita grossa ieri, mi ha detto Roberto, ma bella scappa. Guardi dietro la pastosa, la voglia, ha pure già la famona. Quanto io ho provato tutto stintino, alghero, cose, però un portatore se platamona sono le parti più pescose che ci sono. Per lo meno, da quanto ho curato io, in tanti anni di pesca di coso, ho pescato sempre di più portatore, se per me è al massimo. Dove andavo io a pescare, pescavo sempre pezzi grossi, non mi davano bambinuta. Chiara, vabbè, ma secondo me è meglio andare a fare famona. E a quello tuo non puoi più andare, no? È tutto circondato di ricchi, tutto chiuso, Sì, ma il mare è mare, il mare gira, Lo so, ma da voi rischi, deve stare attento. Rischi capo che ti narrigine, se non prende il cazzo, invece ti andando a Platamona sei tranquillo, che ci riesci esci. Ma a Platamona devi andare, guarda, andare o che vai con molta esca e con molta voglia di pescare, ti fai tutta la notte sino alla mattina alle 6 e peschi bene, se la giornata è buona peschi bene. Oppure devi andare dalla sera alle 8:30 e andartene quando finisci l'esca, alle 2:30 così. Perché poi se tu vai la mattina alle 6, sino alle 8 puoi pescare, dopo ti mettono le muste, arriva la capitaneria e te le prendi tutto quanto. Basta che sono un bagnato e chiami la capitaneria e si butti. Meglio stare tranquilli. Meglio andare dove bisogna andare, va a fanculo, fa un poco di pesce, della carne di vaghi, sa che cosa. Un ragazzo che veniva dove andavo io a pescare, l'hanno trovato, 1,5 milioni di multa, più se questo deve le carne, c'è anche di talcanna che costano anche 400 euro le talcanna. E per un po' di pesce non ne vale la pena, già, passa a casine. Andi, devi andare e basta. Ah, quello sì. Si può evitare, guarda. Ma stiamo arrivando al punto, tanto che ti fanno dire, vivendo tutto e buonanotte, non vado più. E andrò a Roma e me lo bido, lo pesce. Però non è lo stesso, è la passione. Quello che c'è, la gente non capisce, mia moglie mi dice. Tu con i soldi che avresti preso le esche, sei stata al mercato, non uno, avresti preso un chilo e mezzo di pesce. E beh, se uno lo piace, però è meglio andare dove bisogna andare, basta, è finita lì. Tra l'altro il cugino che paga 700 euro di porto d'armi, per non fare porto d'armi, ogni anno paga 700 euro, 750 euro, in più i cartucci, la benzina che spreca, fa andare a cazzo, e dice quello già è vero. È da folli, cioè, secondo me la gente che anda a cazzo, ripeto da me non me l'hanno dato più nessuno. Perché con quello che spendi, la passione sì, ma fessi no. Con quello che si spende, capo, ci vuole un patrimonio. E anche se sta a contare che i cacciatori poi hanno la passione, ma è per un fucile, si lo giambano, tutto quanto. tutto, giubbetto, stivali, cani, roba di dirti, vari cani, devi la pure mangiare, pure altro, non è che... Se tu guardi la convenienza, non ce l'è, ma è la passione, capito? Cioè, pure i cartucci costano un pacco di dinamite. Ma poi vedo le linti che sono fissate con un di là piattello, di là drago, si canti che le cose, si canti il penne in chissà. No, non ne vale la pena, secondo me sono delle lampade. E anche passioni sono, passioni. Io per dire, c'è il cugino di mia moglie che ce l'ha tutti e tre le passioni. Fa pesca al fiume, pesca in acqua, al mare e caccia. Cioè, immaginati tu, tutte le cose si prende roba sofisticata. Per il mare c'ha carre da lancio da 6 metri, di chi si proprio enormi. E quelle ha anche una canna antica che le avevano venduto. Che le avevano vendute in due pezzi, che faccio i lanci che non vedi manco il piombo, li pone piombi da 2 zetti, non li vedi nemmeno. Allucinante, devi prendere la rincorsa per lanciare. Prendi la rincorsa, devi una curva, poi ti blocchi di qua e poi fiume dalla frusta. Ma c'è il piombo, parte manco lo vedo per là. Ma secondo me la pesca è una bella cosa. La caccia no, non c'è niente di speciale, è solo alla patatina e basta. Dimmi, la caccia, diciamo una cosa, che i cacciatori se non beccano selvaggina, vanno a funghi, a cioga, a sparagi, fanno di tutto. E poi si trovano la campagna di mio zio, se ci sono io rubano frutta al tugano. No. I cacciatori sono stati sempre così, sfasciano muretti, infatti quelli delle campagne non li possono avere. Tu pensa che questo qua, questo abusivo, prima c'erano gli abusivi, no, che la prodotta si portava a massa, se c'erano quei pesci lunghi lunghi, non so se li ha mai visti. E mi ha detto che hanno attaccato un inumorese, e la attaccaccia ci ha fatto una macchina senza tutti i rodi bucati, senza quelli verdi tutti fasciati, completamente. Ah, come fare, come non fare a tornarsene? Passato una macchina, detto, scusi, un gommista lo sa dove? No, non lo so, non era detto. Buono vedere, se sei conoscente del posto vai alla grande. Anzi, deve anche rendere te il signore che è vivo. Sai una cosa, ho detto che erano in due, hanno dormito dentro la macchina, che è dormito per modo di dire perché cercavano sempre cagati col fucile in mano, avevano paura che facessero qualche agguato, qualche cosa del genere. Allora, te dormite in macchina, dice fila via, via lasciando la macchina, anche mi era avviato, grazie, cose è un'impallinata manco di nabiti, magari se tutti i canti impari, da tutti i basi ti acciappisci, ho pezzate, non grava, manca un momento. Che ti muovi domani già, dai, se proprio gliel'avrebbero, qui c'è un avvertimento, se proprio gliel'avrebbero voluto fare da lontano, manco una palla avete visto questo, e poi un giorno esperto, sai cos'è, se tu conosci gente del posto va bene, se tu non conosci gente del posto va molto molto molto male. No, poi se l'è informato tramite questo qua, magari la domattesi vi l'aveva fatto, gli ha detto se vuole ne smontiamo le ruote e le do un passaggio sino al paese a portarle a aggiustare. Cazzo, ma riprendi, si è tutta cattiva ma che abbiamo di freddo, traendo, cazzo, dice che non viaggiato così male, con i fessi tutti i corpi spaccati. Fatto sta che questo qui li ha portati giù e a due le gomme le hanno portate a aggiustare. E fatto sta che gli era spiegato, quando erano in macchina gli ha detto che stavano sfasciando tutti i muretti a secco i cacciatori e quindi i paesani non li volevano più, i forestieri, capito? Perché ci sfasciavano i muretti a secco e poi non li mettevano a posto quando saltavano. No, è vive, no, è... No, è... come tenere intorno gli esatti, ma gli è... Oh, vabbè, bisogna stare attenti pure, perché già lo sai come la mentalità lì. Gli è... la mentalità è così, e come mi la paga, da... sono fatti così. Ma d'altronde non hanno tutti i torti, perché anche... una volta in campagna di Antonio, di questo amico mio, dice che lui stava prendendo il sole nella terrazza della casa, cioè aveva praticamente una casa che era quadrata, diciamo, cioè aveva la terrazza quadrata sopra, come posso averla io, capito? Nel mio palazzo. Però lui aveva la veranda grande, le cose, si voleva, stava dentro la veranda, se voleva usciva fuori, si pigliava il sole. Ed era in questo video, stava prendendo il sole sopra. E ha ripito un'impallinata, una raffica di pallini in capo. Ma non diretta, no, da pioggia, così dall'alto. Certo, si è affacciata, guardate, gli ha detto cosa questo qui, ha detto, vabbè, questo qui gli ha puntato il fucile, gli ha detto, ma che cazzo, gli ha parlato anche male, no, gli ha puntato il fucile, a parte che Antonio mi ha detto che avevano messo le reti per le olive, e gli ha, per prendere uno cilino che gli era scappato, ha schiacciato tutte le olive, tutto il lavoro che loro hanno fatto in anno, e in un anno glielo stava rovinando. Certo, ora a Lugani, è andato Lugani in alto, fa poco dite che l'ha disarmato tutto, gli ha fatto lampare un fucile in terra Lugani, l'ha dentato, capito, al braccio. Se non lo diceva lui di mollarlo l'avrebbe tutto, anche se l'avrebbe fatto a pezzettini, perché era un pastore belga di quelli neri a pelo lungo che gli avevo regalato io. E la madre dal giorno, quando vedeva cacciatori, prendeva la bombola, ci faceva un bel ridere, un pezzo di ferro, faceva bom bom bom, faceva scappare tutti gli uccelli. Adesso? Avanti. Ciao, buonasera, ciao. Ciao. Secondo comunque, secondo chi avrebbe trovato la mia via, la mia... Perché... Cioè, ha fatto tutto, hanno fatto un abuso di potere, perché tu dentro casa degli altri non puoi entrare. Aspetto che c'era un continentale che voleva entrare. Avanti, chi voleva entrare con le scuse, l'amico forse non ti ha sentito, dai. Con la buonasera. Benissimo, una 5 ottavi, 2 metri di altezza, è come se fossi a casa quando parlo della macchina. La Sigma viene 6.800, noi siamo buoni. Lo senti per fare per Antonio? Non riprende Antonio, avanti per l'amico se lo senti. Io non lo sento già, dovrei sentirlo, non so se lui sente me. Antonio, ti senti lui, ha detto che ti sente, è a Monteoro, capito? È a Monteoro. Capano, io non riesco a tirarlo fuori perché forse lui mi arriva troppo basso, vuol dire l'onda è troppo bassa. Che te ne sto usando? La Sigma. Sì, capano, non riesco a sentirlo già, sento qualcosa in mezzo al QRM, ma no, non riesco a tirarlo fuori. Appa, nessuno ti sente tranne me. Mi dispiace. Cap. non è quello di un veterano di gamma, se no in 30 anni non aveva una nicchia, sai quante volte sono andate 30 anni, io. Ma è un'acqua così, così, cosa non sono aperta però. Ghiacciata. Vuole la temperatura un po' così. Non lo so, ma non mi soddisfa. Sì. Lascia perdere che sono meglio quelle capole di cose congelate. Le cose fredde così fanno male, lo so. Una volta mi hanno fregato la Coca-Cola e avevo avuto un sonso, mi ha bloccato. Ho cominciato a... non riesco più a respirare. Vabbè. Meglio che abbia, che sia appena fresca, ma che non sia congelata la leva. Altrimenti si crepa, che è micidiale con la roba. No, congelata no, ma fredda, bella ghiacciata, bella fredda, sì. E d'altronde noi teniamo nel frigorifero dove ci sono i latticini, quella roba lì. Ma c'è il frigo, ho visto. C'è il frigo dove ci mettono tutte le bibite. Tu lì, vabbè, dipende dai negozi, dipende anche dai negozi nostri, capito? Se prendi in via di sì non c'è, e lo mettono nel frigo dei latticini, e rinfresca bene, rinfresca un bel. Ho finito la cura. Finita. Via mare comunque c'è. Via mare c'è anche granaglia. Lo so. Cioè, infatti quando ti piace la Coca-Cola vai lì che ti conviene, non ci andare mai al bar. E la trovo facendo della sorvegliata. 2,50 euro al bar di lavare le bagare, chi mi 80 centesimi le bar. No, io una cosa del genere. Anche la trovo quando la sorvegliata. Poi a te ti fanno pagare il fatto che sia fredda, a me no. Vabbè, mi sembra che un servizio lo fanno pagare, ma non si deve far pagare. Che cosa si deve far pagare? Il tuo freddo. No, non si deve far pagare. A parte la fanno pagare 2,50 euro. Lì ti fanno pagare una fesseria, 20 centesimi, una cosa del genere. Cappa. Che comunque già. Vabbè, ma si vecchia. Comunque se ti a costo di una ne compareggi due. Beh, che regalare al bar i soldi. Cazzo, già ci guadagnano poco quelli del bar. Già nelle pizzerie costa 1,20 euro. Ma se andare al bar 2,50 euro direttamente da chi su di ha compreso. E ne andiamo. Che sono una manica di ricaricare. Se non dico a tutti non guadagnarci, ma che ci guadagnano il 200%, se non di più pure. Chi sa come la paga di mano? Loro la pagano la fesseria, la pagano. Se la vendono 4 volte di più. Allora, ma di che radiate, è più troppo. Il mestiere loro è quello. Ma poi loro magari prendono così chi che i lavori di manco proprio per guadagnare di più. Allora non è così. Ma non lo so quando. Ma scusa li fate a questi qua. Ma dipende dalla quantità, secondo quanto ne prendono. Se te ne prendono per dire 20 case, 30 case, qualche cosa di sconto gliela fai. Se ne vuoi 3 o 4 casi, si attaccano, se ne pagano come ti lascio. Ma volta, ma tutta roba vostra o la comprava dal grossista? Ma sai cosa fa? C'è un bar per dire che fornisco io che aspetta quando ci sono gli sconti, quando c'è... coso, come si chiama? Facciamo le promozioni, no? Magari c'è la birra Adrere che viene una cassata, prende, se ne prende 30 casse, 40 casse, lì mica mi fa lo sconto, che è già scontata dalla promozione, no? Sì, a mezzo bongolone, via. O in genere poi fare, vendono la chiusa. E chi non si è Adrere? Ma più di tutti il chinosa, qua a Sassari gira molto il chinosa. Beh, già lo so, è la birra dell'imbriaco e dei circoli, però a me la droga mi piace di più, più dolce come birra. Il chinosa è un bel ranzica. A me piace invece, dico la verità, a me piace. Vero, sai, che secondo a chi la presenti, la droga ti dice sciuccate. Crederti, allora è buona, non è cattiva come birra. Lo so, ma soprattutto in un circolo, cioè se in un circolo li presenti cose diverse le bottiglie del circolo, quanto vedi. Soprattutto in un circolo, se tu li presenti da Adre, non sono molto contento, paghi su di pigliare le chinusa. E anche perché la fanno in casi di plastica, lavorano diversamente, capito? Invece l'altra non ci ha reso, per dire, facci un cacco e ti rulanti, buonanotte. Invece devi stare con questa cosa del reso di plastica, vi deve dare 50 cassette di reso, di solidità, se non vedete di base pagare. Vabbè, i circoli lavorano così. Ma che bar, compare? Poi chi sono di via Tempio, che ne piglia, un furgone in trio ne piglia, ma ne vende pure me. No, i bar hanno tutte le marche, se sono bar sì, hanno tutte le marche, c'hanno Treri, Chinusa, Nastrazzurro, Heineken, hanno un po' di tutto, perché deve raccontare più i gusti, la Moretti. Chiaro. Beh, io gli ho chiesto un giorno, ma solo un rita pigliese, dice, non è buone, cosa devo fare, non è buono. Perché qua siamo fissati con la chiusa, lo so, siamo fissati con la chiusa. Perché il circolo, io mi ricordo l'odore della birra da quando ero piccolo e mio padre mi portava l'albociofilo lì, l'albociofilo che c'è vicino a casa di mamma, Sacro Cuore. Lui non ne beveva di birra, beveva aranciata, cose così, non ne piaceva negli alcolici, però c'erano quelli vicino che tenevano fianco di birra, io me lo ricordo ancora. E un giorno questa signora mi ha visto guardando e mi ha detto, lo vuoi assaggiare un goccio? E ha detto sì. Esce un bicchiere, ma mio padre ha detto non ne dare, no, che ne fa, ma un goccio per assaggiare. L'ha già assaggiata, ha fatto una smorfia, ma non ti piace? No, era ranzi. A parlare ragazzi, mi chiede. E non tu, tutta la roba fatta con eccesso non va bene. Ci vuole una via di mezzo per tutto. Tuo padre ci andava per socializzare, dai. Sì, al bocciuflo sì, e aveva tanti amici che giocavano a bocce, cosa giocava anche lui a volte, e faceva qualche partita, ma tornei non ne faceva, è la verità. Però aveva degli amici che facevano anche i tornei proprio di bocce. E adesso è tutto coperto, se non vedi quanto l'hanno fatto bello il circolo grazie alla vetta. È tutto coperto, c'è anche Zuia per giocare, insomma, è bello. Cava, quali sono entrati i nuovi fucili e nuovi all'acqua, mamma mia. Ogni terra come, uiaia. No, né all'acqua né alla scuola, gli anziani. Qua tanto meno, tanto quanto c'è con gli anziani, ma all'acqua proprio, pensavo poco poco. Tutta tutta parolaccia, così fanno, sempre così, dico. questo me lo ricordo, se anche io molte volte sono entrata, io ho buoni seri di campari, se mi ripingo tutti, paghete tutti quanti a Bibbo una ghetta. Ah, io non ti ripeto, siete da futti di. Guarda, Cesare, Cesare se ne ha bevuto 40 di campari, tutti quanti in fila. Ma così, e già fatto bene a voi a fare questo. Mi chiedo suicidi o meno. E io con la soda caustica che ho in mezzo. L'ha fatto per scommessami, ha scommesso i soldi. E questo qui ha detto, io ti ripongo in un'altra la banca, che tu non ti dici. Ma io poni 40 tutti i canti in pari. Ha tappigliato glu, ha sorsato l'uno. Guarda che tu ti sconvolgi il campare, basta che ti ripeti di gripa. E se ci abiti tutti, cosa c'è l'Agostino davanti, però non vedi niente, l'ho visto. Io non l'ho visto però, ma non l'hanno raccontato. Ma è che ci siamo messi tutti in fila, ha cominciato glu, la prima fila, togli tutti i bicchieri, la seconda fila, la terza fila. Si è nagato si abiti tutti. Chi si è abitato, la mola di là se ne è andato, bravo. Ma lui era spaccone, lo faceva per farsi video, no, cazzo. Si è mangiato la fine, l'avevamo posto, mi pare che l'avevo rubato al Paolo, l'avevamo posto, vedo si sciuparava sempre la fetta della fine più manna, no? L'avevo posto, ha visto le cose di Rubeva, l'avevo posto, mi dai boccetta a Trento, l'avevo fatto. E dopo l'ha pigiata, no, la fanno finito. E gli ha detto, si mette la fine, chi sa più manna, buono. Avevi tu una doppiata, sacca la bigliata, cazzo già tutti erano in RD. Cazzo comincia a dire la mossa e cose, non ha detto manco va, niente, è come se non fosse una cosa normale, magari la gribbene dentro, ma non è di zia, eh. E beh buona, e cazzo se è buona, ha fatto finta di nuda. E per quello che poi vengono i mali, la presa di male, cioè sei tu lo spaccone, lo deve fare. Infatti nel momento di cosa cosa malato, mi pare un piccato va via, che no. Non lo so, mi pare no, mi pare la testa. Perché ha cominciato con che non si reggeva in piedi, così. Quindi a cazzo che fa, non mi reggo in piedi, ti ha messo un debole di ranchi. Purtroppo se fai così, fai così un casino, cioè, se ti fai male, proprio poco di fa. Sono cose eccessive là. Come uno mi ha raccontato che ha visto uno che si masticava il bicchiere e cazzo si vengo via. Se lo fa amanti, che... Pigliava mossi, blu, tanto. Se no mai mi sembra impossibile una cosa del genere, ma detto che l'ha visto, ti giuro già, se non l'avessi visto non ci avrei creduto, o se no dove l'ha fatto, in un bar vicino a Sacro Cuore. Quel bar che c'è, scendendo dall'Assisi, ha visto dove ci sono i parcheggi dell'Assisi, invece che devi scendere, non verso giù, c'è quel bar sulla destra, lì dice che l'ha fatto. Fatto che non ho capito bene. Assisi di Via Pascoli c'era presente. Quando tu metti la macchina in parcheggio poi devi scendere verso giù, no? Sì. Aspetta che Marco si è tagliato. Ah, aspetta che non in bagno un attimino. Antonio? Antonio? Avanti. Antena più seria. stanno venendo da Fusaro, ci sono le Ringo che sono anche scelte radiali, sono belle come antenne, quelle lì vanno bene. Ma con la 5 c'è un gradito di buona, ma non la stanno per fabbricando, è andata fuori produzione, quella è la 1, tutti e due. Comunque ti sto dicendo, c'è ancora Grassi che ce l'ha, se ti interessa ce l'ha ancora Grassi a Sassari, che sarebbe quello prima in Portobello, mi pare te l'avessi già detto. E diciamo che non penso che sia lui, ma c'è quello che lavorava da Grassi, quel ragazzo che lavorava lì, più quello che aveva diesel alle conce, non so se tu l'hai conosciuto. Razza di cani, e passo a passo, vabbè, comunque quello che lavorava lì e un altro si sono messi in società, hanno aperto questo negozio e si trova esattamente prima della curva per Portobello, entri prima della Mercedes, quel vicolo che c'è, dove c'è anche micro eccetera eccetera. Sì, non conviene comprare, se la roba ce l'hanno conviene comprarla, mi pare che le antenne le abbia a disposizione. Se non ce l'hanno, come lasciarli perdere, perché sono tutti così, Grassi, Fusaro, GBC, perché li ho provati tutti, ti dicono sì, lo ordiniamo, la prossima settimana venga, e questi trattengono per mesi e mesi e ti danno per i fondi, e poi non te ne godi. Tu riprendi, non corrisci comunque, hai ripetito Anto. No, ma qual è l'attacco che non sono riusciti a capire? L'amico è un uovo che trasmette le cappuccini con un'antenna di macchina e in condizioni un po' precaria, però si fa sentire qua e si dovrebbe mettere un'antenna come si deve, ancora non si è deciso, vero? No, già lo sento anch'io, già lo sento un po' basso, ma già lo sento. Comunque se mi stai ascoltando saluto da Antonio Bombolo. E ascolta tanto il mio bombolo. Ha detto che il QRM ce l'ha 1, tu arrivi 1,1, ma la radio ce l'hai 0. Guarda, buona madre. Guarda, se mi senti adesso. Adesso lo sento. Però che segnale che arrivo. E adesso butto, va. E vabbè, io quella zona dovrò arrivare a 9.30, 9.20, 9.30, è l'antenna che hai tu, ma non ammassa, non lo so, Sì, sì, se mettessi carico fico facciamo la stessa cosa. Vabbè, comunque, decidi che l'antenna mettere, ma soprattutto te la fanno mettere, sì. Mi hai detto via le Mavili, quella zona lì. Ma case vecchie, case nuove. Esatto, l'estate perché tutti fanno la passeggio, invece stasera in casa al caldo, normale. L'estate è un po' d'inverno, la gente gli piace stare al calduccio, quindi si accende l'apparato, si fa la modulata. Poi non so se tu conosci DX, adesso si fa le DX e quindi vanno tutti sui canali alti, banda laterale, eccetera. Perché l'ho abbassato io, la manopola, non abbasso la manopola dei watt, che metto un watt, è normale che abbassa. Ah, mi vuoi dire che sto scelto male io? Lascia pure vedere che è benissimo. Almeno se c'è qualche cosa che ti disturba, qualche, non so se c'hai qualche ripetitore, qualche cosa del genere, i telefonini, così disturba. Ah, facciamo riprendere Antonio, se no resta parcheggiato, va. No, questa rimane una bomba, ma tutto bene, questa la vedete se c'è qualcosa che non va. Ma lo so, dipende da lui, che si deve attrezzare. Se si mette una bella antenna, vedrai che riceve e trasmette bene. Anche se non ho una grandissima antenna, però riesco a farmi sentire. Io la mando a 5 comunque, Giorgio. Per lei. americana ha visto qualche foro, ma che è un'antenna molto buona, che supera anche in gran lunga come tipi di guadagno la Mantova, eccetera eccetera. Sai che gli americani hanno sempre idee grandiose, quindi posso dirti che secondo me quella lì dovrebbe essere buona, perché ne ho sentito parlare, ma la costruiscono solo in America ancora, la devi fare arrivare là. Com'è che si chiama? Pagabia. Che... prova a vedere. È il Magnum, te lo consiglio, e se lo vuoi prendere un buon apparecchio. E invece che l'S9 adesso c'è il 380, prima avevo l'S9, adesso c'è il 380. Aspetta, adesso mi ha messo il soffo. Mi ha messo il soffo. Il 380, sì. L'S9 è molto bello. Ah, ho detto te. Sto combattendo, un attimo. Appare prima, dai. Non Marcolino sto combattendo. Ma si chiama l'amico Giorgio, così è. Zappa. Ma perché ho capito, quello che ho capito, eh. Comunque io riesco a sentirlo più, ma è strano che lo senta a me. Senti bene. No, non lo sento bene, io non riesco a sentirlo bene, però è strano. L'S980, l'apparecchio Giorgio. Sopra. Come l'S9 è uguale identico, solo che ha diversi vani. Sì, adesso si riesce a parlare con l'antenato, quella che mi stavo dicendo io, con l'americana. Sì. IMAX si chiama, IMAX. Segnate. Sì, sì, già ho capito. IMAX. No, T-Max è la moto, Y-Max. Cosa da giudizio? Io capito T-Max. Sì, T-Max. Vabbè, ho capito Valia. Ma neanche il bip sente, Giorgio. Giorgio, il bip lo sì. Il bip di bombo lo sì. No, è la pure a mare, quindi è proprio zero. Già lo sento, ma non lo sente. Dipende da ricezione e cose varie. Pure io a lui è poco, ma riesco a sentirlo, poco, non riesco a capire bene le parole, però riesco a tirarlo fuori, e non mi tira fuori, manco un po'. Allora, siccome è una persona che modulava già diversi anni, sicuramente con l'antenna che ha tolto è tutta canta rugginosa, poi c'è qualche cosa si dà, non prende bene. Sicuramente c'è qualcosa da dire, perché io è poco ma riesce a tirarlo fuori appena. Giorgio, ma la antenna com'è messa? Com'è messa, in che stato è? Cacchio. Beh, se la metti sul tetto già risulta. C'è anche una terra? C'è una terra, dicendo. E allora? Cavolo. Vabbè, no, ha la possibilità di montarla su. Poi non lo sa, no? Cavolo, perché dal punto dove sto immaginando io... da quella zona lì, anche mettendo provvisoriamente, anche mettendo una storm, riesci a farti ascoltare dappertutto sul tetto. Se devi metterla sul tetto, non te la voglio far notare, c'è la tele di giro. aspetta, se il tuo condominio non te la fa piazzare sul ceppo, c'è tutte le leggi per andare incontro. Aspetta. Ah, perché lo paghi da gennaio l'abbonamento, le camere? E allora, se c'hai la concessione, cosa si aspetta? La garrote? Sì. No, io l'avrei fatto subito. Non so, ma qua, sì, ho alzo la mano, ma sta scaldando bene, perché l'ho messo passo passo, di fatto è proprio per quello. Per l'altro toccato scalda una bella parecchia. Anche la parola ci vorrebbe. Ci vogliono due ventole grandi. Qui si vendono i cinesi per il computer, mi pare, per comprare giù una. La scatta la piazza qua. Scaldano troppo, scaldano, quanto ogni tanto controllano. Sì. Questo qui c'è una stazione base, non li va più. C'è dissipatori dietro. E caldo c'è caldo. Caldo c'è caldo, aspetta la carta con l'acqua. Poi cambio di apparato, dai. Antonio. Eccomi. Cavolacci, ho preso l'altro adesso. Giorgio, questo qui è 980, ti piace? Ti piace? C'è una bomba, questo è un bel apparecchio. C'ha parla, ascolta, ti ascolti in cuffia quando parli. C'ha l'eco, compressore microfonico, questo è un microfono normale. Esatto. Cosa ne pensi? Non cominciamo a confondere l'ana con la seta, questo qui costa 470 euro. E 980, sì. Ecco, la derivata è sempre, non dico come la verità. Io qua sono sotto Rosmetro, posso confermarti, comunque fate sono regolabili, tu li puoi mettere quanto li vuoi, non è che per forza devi usare quei batteri. Io per dire adesso sto facendo con i cifatti, non è che stai usando il massimo, ma diciamo che ce li hai se ti servono li puoi usare. Sì, va. Diavolo rosso. È difficile, dici. Scatti che quello lì te lo dico io quanto costa. Costa 70 euro. 70 euro. Quel microfono lì. E secondo l'apparecchio che non va bene perché ha un bel acuti. E 70 euro ti viene. E 71, va. Poi io l'ho avuto, ne ho avuto due di quelli. Ho avuto anche il nero. Anche il nero. Ma quello va bene per l'Alan 48, eccetera, eccetera, eccetera. Antonio, riprendi, dai. Quanto dormito di sì? Mortacci due, una volta siamo apparecchi, ti sei addormentato. Ah, no, no. Antonio. Forse era stanco e si è addormentato, a volte succede. Non è venuto già, sono dovuto entrare a QDH piccolo. Ah, pensavo che fossi già arrendito, già dormito. Come deve quello il leader quando va a parlare fa tu, tu? Cosa? Il leader quando va a parlare fa ta, ta. Do i colpi allo smitter. No, sicuramente dai picchi di, salgono i picchi di modulazione, è vero, come un apparecchio modificato. Cavolo. Ora, così. Siamo messo d'accordo. Giorgio ha trovato questo sito, dice dove lo vendono i minori. Guarda, dico una cosa. Già, meglio spendere 50 euro in più, però prenderlo da una persona che sai che ti puoi fidare, che è andata a carriaggio, che magari è un pochettino a rischio. Infatti io ho sempre comprato lì, io l'ho preso a telecomunicazione sempre. ho mollato uno e ho preso l'altro, ma come il mal di cuore, perché anche quello là andava bene, era di Lusavir. Diciamo che sono tutti e due molto buoni, con apparecchi, niente da dire, né sulle 6-9 né su queste. Però lui, se a me non mi va bene qualche cosa, glielo rispedisco e me lo chiama, un altro non lo faccio. Oh no, ma meglio andare da persone serie, se la pigliano in luce chi c'è 50 euro, però uno deve guardare anche quello, tu vai, questo l'apparecchio di una persona seria, sai che ti puoi fidare, ma tu vai a guardare l'apparecchio di una persona che ti lascia desiderare, cioè se ti dica che cosa, come te la fa, come te la pone. Meglio andare da posti dove si sa, dove si può fidare uno. Sì, no, ha fatto quello, sia alle 9.80, alle 9, niente da dire. Ha preso una persona che lo tiene come un gioiellino. Quindi, no, poi bisogna essere contenti anche di quello. Ha pagato, ero grido, ero grido. Io gliel'ho dato come un gioiello e come un gioiello è nuovo, nuovo, va un graffio, niente, una cosa trattata da me, è difficile, guarda, mi deve proprio cadere in terra per succedere qualche cosa, se no io lo tratto amorevolmente. Già lo sai già, com'è fatta quella persona là, mamma mia. È meglio. A volte ti danno certi apparecchi a seconda mano, magari microfoni, fanno i raggrani, a Trento, vedi di chi bisogna trattarli, va? No. Allora, guarda, il mio, questo qua, è nuovo, c'ha quasi un anno, c'ha adesso, deve compiere un anno, è lucido, pulito, già l'hai visto pure tu, non c'ha polvere, niente, è nuovo, nuovo. A me a volte hanno dato dei microfoni, anche tu che ci passavo il CRC sopra, il CRC, le glasse se sopra, ci passavo il cotone, cazzanello usciva. Oh, il mio è sempre bello, pulito, trattato bene, no, deve essere come deve essere, come quando l'ho comprato. Gappa. Quando si è comprato, come la fabbrica l'ha fatto? Così che deve essere. Uno ci deve tenere alle proprie cose, non è che... Ma io sono in tutte le cose così, con la macchina, con la moto, se così più lucidente, il vento. Chiaro. Ma non è che sia proprio al massimo, però si tengono bene, dai. Così è, Giorgio. Cosa non ho capito? Ripeto. No, non lo conosco come venditore, quello lì. Ah, va anche così, guarda, 1, 2, 3, prova, guarda, 1, 2, 3, 2. Ma io non posso parlare così, quella gente dorme. Bombolo. Dimmi. Basta mettersi di impegno e arriva, non c'è problema. Comunque, migliori di quelle già puoi uscire con un'altra antenna. Puoi già uscire. Magari accontentati di una piccola per il momento e... tipo la Ringo. E va molto meglio che quella lì. E la metti sul tetto, a voglia che va. Ciao, buonanotte, dai. Ci sentiamo nel prossimo. La buonanotte che da parte mia, io sa buon bambè. Giappa, buonanotte dai, che da parte mia. Ma mi sente? A me mi sente? Se n'è andato, salutate, se n'è andato. C'è QRM3, dice che non sente nessuno. Ora mare. Cosa? Ma anche a te senti fa? No. Vero? Ma detto che mi senti freddo, non posso parlare a voce alta. Se parlo a voce alta c'è che mi cambia la giorno la notte, ma io non posso parlare a voce alta. Brutto di grazie. Scendi dai, aspetta un attimo. Buonanotte, non so qualcosa per domani, ciao ciao. Ciao, buonanotte, ciao, dai, ci sentiamo domani.